26 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 26 dicembre. Parto per Roma fra 2 ore. C'è una grande novità. Il babbo non viene ad accompagnarmi, ma mi affida invece al signor Clodoveo Tirinnanzi, suo intimo amico che viene appunto nella capitale per affari e che mi consegnerà al dottor Collalto nelle sue proprie mani medesime, come ha detto lui. Che tipo buffo è il signor Clodoveo? Prima di tutto vuol far sempre il forestiero e si è cambiato gli I del suo cognome, che sarebbe Tirinnanzi, in tanti Ypsilonni, facendone un Tirinnanzi, perché dice che nel suo commercio, rappresentando le principali fabbriche d'inchiostri dell'Inghilterra, gli giova presentarsi ai clienti con 3 Ypsilonni. E poi ho un tombolotto grosso e grasso con un faccione largo contornato da 2 cespugli rossi di fedine e con un nasino più rosso che mai e tondo tondo nel mezzo, che pare proprio un di quei pomodorini piccoli ma tutto sugo. «Bada», gli ha detto il babbo, «ti prendi una bella responsabilità, perché Giannino è un ragazzaccio capace di tutto». Ha risposto il signor Clodoveo, ma non sarà capace di scuotere la mia flemma inglese, garantita come i miei inchiostri. Se non è buono, gli tingo la faccia e lo mando in una colonia indiana. Marameo, ho detto fra me, e son salito a prepararmi la valigia con Caterina, perché da me solo, col braccio malato, non posso. Ho messo tutto quel che mi può occorrere a Roma. Le tinte, la palla di gomma coi tamburelli, la pistola col bersaglio... E ora metterò anche te, mio caro giornalino, che mi accompagni in tutte le vicende della mia vita. Arrivederci dunque a Roma! Fine del 26 dicembre.